Ci fanno nemici. Sulla morte dell'uno, via il riposo dell'altro. E questo ferro, tanto sugli occhi miei. Più di rispetto alla vostra sovrana, anche fardeggi. Datevi pace. Io qui spergiuro non sarò a voi. D'entrambi pari al grado e la gloria, il zel. L'amore ad entrambi del pari teggio gli affetti miei, del pari li avrete. Ma come? Non intendo, dite, dice ad un re che incida imperi aver più mogli. Usa il concedo. Ma l'uso chiedi il vigor, la legge. Che stabili la legge? E regnanti l'autorità sovrana. Che tra voi l'alto potere, Siriana, Ozidiana, che un regno altre leggi può far. Regna e può farne. In pari grado, in pari amor, pentosto ando. Che? Non son io vostra sovrana. Il sei. Il par sarete. Basta. Sieghi. Che mai? Già mi intendete.